Babbo. No, pure io. No, ti combinano una, due, tre. Ma bella lì. Sempre per la guerra, è continuazione guerra. Cosa...